Ricordiamo brevemente i contatti della radio. Partendo dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati. Attraverso le notizie e le corrispondenze che vengono registrate nell'arco della giornata. Dove potete trovare tutti i podcast delle trasmissioni. Tra cui i podcast di questa trasmissione, insomma, se volete ascoltare le scorse puntate andando a cliccare su palinsesto, quindi giovedì. E quindi poi su Do It Yourself Invasion si aprirà la pagina con tutte, con i podcast delle altre puntate. E poi sempre lì andiamo a caricare altre informazioni. L'email della redazione è ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. E quindi dove potete segnalarci le vostre autoproduzioni. Nonché le iniziative. Radio Ondarossa, radio libera. Senza padrini, senza padroni. E che va avanti unicamente grazie al libero contributo di ascoltatori ed ascoltatrici. E quindi potete sostenere Radio Ondarossa sempre attraverso il sito, andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati ad una pagina dove potrete trovare tutte le coordinate per poter sostenere Radio Ondarossa, appunto. Oppure potete sottoscrivere attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00 185 Roma San Lollo. Non per ultimo potete farvi sentire attraverso il telefono di Radio Ondarossa, e che è sempre lo stesso dal 77 con l'aggiunta dello 06 06 49 1750. Allora, noi vi lasciamo all'ascolto degli Shameless. Hardcore melodico di stampo obofobic. La tradizione è quella. Shameless, senza vergogna. E quindi vi lasciamo all'ascolto degli Shameless. Mi si stava intrecciando la lingua. Mentre prepariamo un primo collegamento telefonico, state lì. Allora, ci siamo. Primo collegamento di questa sera a presentazione di un'iniziativa che ci sarà il prossimo 25 settembre. E quindi una raccolta fondi per contrastare il progetto della discarica di Cupinoro. Ma ce lo racconterà meglio chi ha il telefono dall'altra parte. Buonasera, ci senti? Ciao a tutti. Allora, buonasera, insomma, ci abbiamo il telefono patato, lo conosciamo qui a Radio Onda Rossa sia per le sue produzioni musicali che per iniziative, insomma, dove è venuto a darci una mano. E questa sera però ci presenti l'iniziativa appunto di domenica. Raccontiamo insomma a chi ci ascolta cosa accade in quel di Cupinoro, che non tutti sono così informati. Sicuramente io ho visto anche dalle scorse trasmissioni della trasmissione nostra del lunedì, che è Impatto, che si è occupata della questione, però insomma ricordiamo insomma quello che accade nell'area di Cupinoro. Sì, a Cupinoro c'è prima c'era una discarica che c'è stata per 30 anni, diciamo tra Bracciano e Cervetoli e tutti i comuni limitrofi, una discarica che è nata su un sito che è vincolato da mille vincoli, tra quello paesaggistico e quello dei beni culturali, insomma, quindi è partita già con un vizio la cosa, una cosa abbastanza illegale. Per 30 anni c'è stata questa discarica che ha avvelenato le acque, le falde acquifere sottostanti e l'aria dei comuni limitrofi, e adesso c'è stata da qualche tempo una ricerca di conversione di questa discarica verso un polo regionale dei rifiuti, che vorrebbero spacciare come una soluzione. Invece è sempre la solita storia, nel senso diventerebbe un polo dei rifiuti che serve 121 comuni dell'area metropolitana di Roma. Ci sarebbero due impianti, uno TMB e un altro a biogas, come è già successo in tanti altri siti sia nel Lazio sia in tante altre regioni d'Italia. Questi impianti si trasformano bene o male sempre prima di tutto nel solito riciclaggio di soldi, e poi continuano ad inquinare indistintamente le acque e l'aria di tutti i paesi circostanti, arrivando anche aree abbastanza lontane dal sito stesso. E fermiamo Cupinoro insieme a queste altre associazioni di Terra Attiva, vuole fare quest'ultimo disperato tentativo, dopo essersi visto respingere un ricorso al TAR per delle questioni veramente di bassa lega, quest'ultimo ricorso al Consiglio di Stato per cercare di impedire per l'ultima volta questo scempio che stanno cercando di perpetrare sul nostro territorio. Quindi diciamo che tutto il percorso di lotta prettamente legale è arrivato al termine senza ottenere, insomma, senza riuscire insomma a fermare il progetto. Sì, perché diciamo il sito di Cupinoro e tutto il sistema burocratico e il sistema di interessi politici e economici che ci girano intorno, essendo un anello importantissimo per tutto il sistema rifiuti della regione Lazio, soprattutto della zona dove siamo noi, ha fatto sì che tutti i tentativi di ricorso, tutti i passi avanti importanti che si cercavano di fare legalmente sono stati respinti. L'ultimo ricorso a TAR è stato respinto per delle cose ridicole, diciamo le associazioni che l'avevano proposto sono state definite non legittimate a rappresentare la popolazione del territorio, quindi diciamo una proposta di azione legale caduta nel vuoto. Adesso questo è l'ultimo tentativo, forse ce ne saranno altri, ma diciamo che è l'ultima botta di reni che cerca di dare l'associazione per cercare di fermare tutto questo, che ripeto, viene spacciata sempre dai soliti noti come una conversione verso sistemi ecologici, certo, verso sistemi sostenibili e cose varie, ma diciamo è sempre la solita storia. Chi studia un minimo di queste questioni sa come vanno a finire questi impianti, di che cosa si alimentano questi impianti e gli interessi che ci sono tutti. Insomma, poi l'abbiamo visto pure a Roma, insomma, come è andata a finire la gestione dei rifiuti, del problema attuale che c'è a Roma, insomma, sempre il solito problema di gestione, insomma. Sì. E invece la giornata del 25, come sarà strutturata? Sì, il 25 appunto c'è questa giornata per raccogliere dei fondi, ci saranno pranzo, merenda e cena preparati proprio da loro dell'associazione con tutta roba genuina che viene dai loro campi. E ci sarà anche la musica, ci saranno delle vecchie conoscenze musicali della nostra zona, Bombay e Gialupo, e ci sarò anche io a suonare, e ci sarà, diciamo, da stare insieme tutto il giorno, e anche motivo di confronto e motivo per parlare di questa situazione, perché quello che sta cercando di, oltre all'ultima azione legale, quello che sta cercando di riproporre Fermiamo Cupinoro è una mobilitazione popolare, una mobilitazione cittadina che si è andata un po' perdendo nell'ultimo periodo nella nostra zona, anche perché strumentalizzata da varie forze politiche che, come tu ben sai, partono sempre parlando dei problemi del territorio e quando arrivano al dunque poi vogliono che tu marci sotto il loro vessillo. Quindi anche per opporsi a tutto questo c'è una giornata del genere, quindi confrontiamoci tra persone umane, tra persone civili, senza, diciamo, troppe bandiere sopra. Benissimo, senti, vogliamo ricordare come arrivare, insomma, al posto dell'iniziativa, anche per chi viene da Roma? Sì, essendo una zona di campagna, consiglio di andare a vedere soprattutto sul Facebook di Fermiamo Cupinoro e tutte le pagine affini, le indicazioni precise. Comunque l'azienda agricola Le Bricchette, in via comunale di Lena e Massa 24 a Bracciano. Comunque ci sono tutte le informazioni sul Facebook di Fermiamo Cupinoro. Poi sicuramente, insomma, a breve lo rimanderemo qui sul sito di Radio Onda Rossa, quindi potrete trovare tutte le coordinate, oppure, insomma, richiamandoci qui in radio vi daremo indicazioni precise. E quindi noi da questi microfoni rinnoviamo l'invito a partecipare domenica, appunto, per una socialità costruttiva, appunto, per conoscersi e per sostenere la battaglia legale per fermare questo mostro, e insomma per stare insieme, per lottare insieme. E grazie. Ok, io direi che, insomma, ci siamo detti un po' tutto. Se non hai nient'altro da aggiungere, ci salutiamo, magari se ce la facciamo a vederci appunto domenica. Lo spero, grazie mille dello spazio, della possibilità. Ok, grazie a te. Senti, io ho scelto una traccia, magari ti fa piacere, c'è un nome, mi ricordo un anno di inizio secolo. Mi ricorda qualcosa, sì. Ok, va bene, allora noi ci ascoltiamo 1904, ti salutiamo ancora, un abbraccio palato. Un saluto a voi. Ciao, a presto. Ciao. Allora, appunto, come annunciato da Lima Sorda. Se riusciamo a vincere i problemi tecnici di questa radio. Appunto, Lima Sorda, questa è 1904. L'estate roba seria, sui campi di galeria, si dorme sui covoni, nelle stalle dei padroni, il vento parla chiaro, è polvere da sparo,

21 e 36 minuti primi. Vabbè, non è che noi seguiamo dei ritmi veloci. Da queste parti, in questa trasmissione, abbiamo un ritmo più rilassato, che si allontana dai ritmi forzati e veloci della produzione e della produttività. Però nel frattempo c'è chi non si rilassa e fa uscire bei dischetti. Sono venuti ieri sera a 25 O'Clock, ci hanno portato l'ultimo lavoro. Loro sono i Palcoscenico al Neon e questa è Radice di Due. Appunto, si parlava di ritmi stressati e stressanti. Questa è l'ottava traccia, 8 ore. Che raccoglie? Zucchine. Zucchine? Sì. Quanto ti danno l'ora? Ma voi se a fare le tese, si cavano le chiede. È importante anche questo, no? 5 euro. 5 euro l'ora? Sì. Ok. E fai tante ore al giorno di lavoro? No, 8 ore. 8 ore? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. lo ripeto di notte. Dentro gabbia aziende uno zoo di persone. Sono come un boia, allora dove il tradimento? Sono come un aneato visto ancora nel cemento. Sono come il giorno, ripeto di notte. Dentro gabbia aziende uno zoo di persone. Allora, mentre questo weekend in quel di Bologna all'XM24 ci sarà la decima ed ultima edizione del September to Dismember, un festival underground in spirito do it yourself. Tra i più massicci d'Italia e non solo. Festival che ha visto negli ultimi 10 anni insomma all'alternarsi dei gruppi più fighi in giro, e non solo, perché una giornata del festival è sempre dedicata alla proiezione di lungo e cortometraggi horror. Appunto, è la giornata del Cinemassacre. E quindi dopo 10 anni si è arrivati all'ultima edizione. Già sentiamo in sottofondo i Crude SS, unica data dalla Svezia. E saranno tra i gruppi che si esibiranno nella giornata di sabato. Tutto questo è l'XM24. L'iniziativa sarà a benefit per la cassa antirepressione delle Alpi Occidentali. E quindi chi può all'ascolto, andate in massa, perché è l'ultima occasione. Quindi noi continuiamo per questi ultimi minuti di trasmissione per farvi ascoltare qualcosa di quello che potrete trovare all'ultima edizione del September to Dismember. We'll be right back. loro sono i Crude SS dalla compilation The System You Hate. Is the system you support. Il sistema che odi è il sistema che sostieni. E ci spostiamo in Italia, in quella di Alessandria. Loro, visti dal vivo, sono una garanzia. Qui ce le ascoltiamo da uno split con i Cancer Spreading. E questo 7 pollici split prende il nome della canzone che ci stiamo per ascoltare, che è Post Nuclear Drunk Warriors. ed appena ascoltati sono loro, erano i Fallout dall'EP del 2012 Invincibile Sporca Armada, loro dalla Spezia. Sempre sul palco dell'XM24 questo sabato per l'ultima edizione del September to Dismember. E potrete trovare anche loro, gli Obos. Loro da Venezia. Qui dall'album omonimo, autoprodotto, uscito nel 2013. Questa ce la riascoltiamo da capo. L'inferno non basta. Ed andiamo a passare l'ultima selezione dedicata al September to Dismember. E con questa salutiamo il Gigio. E loro sono gli Overcharge da Varese. E questo è Downtown Inferno. Da capo, eh? Quindi chiudiamo così la selezione apocalittica dedicata al September to Dismember. Vabbè, sempre meno apocalittica della campagna della Lorenzin. E sì, insomma, andiamo per gli 8 miliardi. Quanti? Quanta è la popolazione mondiale? No, beh, se ne sarà parlato tutto il giorno. Ovunque, dovunque. com'era la foto della campagna? Sii fertile. Non essere come loro, i cattivi compagni. Insomma, la parte superiore di queste di questa foto. Tutti pulitissimi, biondissimi, sorridenti. Diventa un'incubatrice. Sforna contribuenti. Va bene, chiudiamo qui. 22:07 minuti. Allora, se non ho capito male, dovrebbe esserci Apostasia che rinizia da questa sera. Quindi rimanete lì. Mentre con questa voce l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle ore 21 alle ore 22, con Do It Yourself Invasion. E quindi a risentirci a giovedì prossimo, un saluto a tutti e a tutte. No, no, vabbè, non sia mai, insomma. No, le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa di questo giovedì 22 settembre si concludono qui, perché Apostasia non ricomincia questa sera. Non mi pronuncio più, perché sennò mi correggono prontamente. Ed il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. E quindi trasmissioni che tornano in diretta domani mattina dalle ore 8 per la rassegna stampa. Quindi vi lasciamo con la compagna automatica. Dai! E un saluto ad Alessandra, aggiungo. Chiudo.